Il punto di Stefano Folli. Attenzione a non sopravvalutare lo scambio di cortesie fra Napolitano e Grillo. Certo, il Presidente della Repubblica lo aveva fatto sapere da Monaco, ha tutto l'interesse a mantenere ottimi rapporti con i vari protagonisti della scena politica, visto che si tratta di dare un governo all'Italia con doverosa celerità. E Grillo, anche a lui conviene essere affabile con il Quirinale in questa fase. Nemici ne ha abbastanza. E un buon rapporto con il Capo dello Stato è essenziale per permettergli di mettere a segno altri colpi contro i vecchi governanti, per cui preferisce colpire Bersani, suo nemico numero uno, e invece ringrazia Napolitano, l'uomo che dovrà favorire una soluzione della crisi con un governo nel quale Grillo non vuole entrare, ma nemmeno intende restare estraneo, perché i suoi non capirebbero e forse non lo seguirebbero.